gente che saluta solo con i guanti. Qua non si può tacere, deve andare avanti. Provare per vedere quante sono le menti che parlano la buonanotte di allineamenti. Ciao a tutti e benvenuti alle buonanotti di allineamenti. Ripartiamo con la seconda edizione di questo programma che vuole dare un quarto d'ora di chiusura della giornata e di qualche suggestione per le nostre menti, il nostro cuore, e condividere qualche piccola emozione che abbiamo vissuto durante la settimana, il giorno, l'anno e qualunque momento che ci viene in mente. Come sempre invitiamo tutte le persone che vogliono partecipare a scrivere ad allineamenti e a proporci un loro quarto d'ora. Su cosa volete dare la buonanotte ai vostri concittadini? Io e il Mendoza, come sapete, siamo sempre molto disponibili a nuove idee. E dopo che l'anno scorso siamo andati un po' a random, se si può dire, dove ognuno portava un po' quello che voleva senza creare un filo, io quest'anno mi sono detto: ogni settimana devo portare qualcosa che abbia una logica, un senso, qualcosa che voglio raccontarvi. E allora, per iniziare questa prima settimana, ero lì che ci pensavo, diciamo, ma cosa porto? Cosa si può dire in radio? Quali sono le mie passioni che voglio raccontare alle persone? E ho detto, beh, partiamo da chi sono. Allora, io sono Gastone, vengo da Como, e ok, quindi vado in radio a Como, ci sa tutto, e sono nato nel 1991, e quindi ho pensato, in questo anno palindromo che mi piace sempre elogiare e dire che è l'anno più bello del mondo, vediamo un po' cosa è successo ed esploriamo un libro, una storia di quello che è accaduto in quest'anno, e andremo avanti così, piano piano, per raccontare ogni settimana un anno. E il 1991 è quello che ho scelto per questa volta, ed è il mio anno bellissimo. Ho provato a cercare subito su Wikipedia cosa è successo di fantastico, e devo dire, il 1991 è un anno veramente ricco di tantissime cose interessanti, nonostante non ci sia niente di eclatante. Per esempio, il Sudafrica nel 1991, nel primo febbraio del 1991, ha abolito le ultime leggi razziali ed è finita così l'apartheid. Finisce anche la guerra del Golfo alla fine del mese, il 28 febbraio, quindi diciamo è un anno tra virgolette pacifico. Gli anni pacifici generalmente hanno poche notizie, infatti una delle più grandi è l'antidoping che becca Diego Armando Maradona trovato positivo alla cocaina, o il 25 marzo Sofia Loren viene premiata con l'Oscar alla carriera. E devo dire che succede poco fino al 6 agosto, quando invece forse qualcosa di eclatante c'è, ma il 6 agosto non lo si sapeva ancora. Infatti nasce il www, punto, il World Wide Web, e il suo creatore Tim Berners-Lee mette online il primo sito web. Non lo sapeva ancora che oggi saremmo stati tutti connessi grazie a lui. E poi ci sono altri mesi freddi dove succede poco, finché non muore Freddie Mercury il 24 novembre, e da lì lascia diciamo un mese freddo che porta tanti morti, perché cessa la Pan American World Airways, il servizio, dopo 64 anni, e muore anche l'Unione Sovietica. Infatti tutti i vari stati sanciscono la dissoluzione dello Stato Sovietico e la nascita della comunità degli stati indipendenti. E per chiudere l'anno vi dico che il 15 dicembre si è festeggiato l'anniversario del 200° anno della morte di Mozart, tanto per concludere in bellezza. E bene, racconto una anche sportiva, visto che sono interista. Quell'anno l'Inter vince la sua prima Coppa UEFA al termine di una finale tutta italiana con la Roma, ed è la prima vince il primo successo dal 1965, quindi tantissima roba. Un anno veramente ricco di storie, un anno dove sono nato anche io, e un anno dove ho cercato di trovarvi la storia da leggervi questa sera. Devo dire, non è stato facile, nel 91 non ho trovato grandi libri, non ho trovato grandi soddisfazioni, e quindi quello che ho deciso di portarvi è un libro che parte dalla mia... non funziona più la musica. Che parte dal mio amore, la filosofia. Ah no, la musica c'è ancora, eccola, si era bloccata. La filosofia, dicevamo, la filosofia è una materia che ogni volta che dici ho studiato filosofia, ho fatto filosofia, ti dicono sempre: ma che cacchio vuoi andare a fare? Cosa ti serve la filosofia? È sempre difficile spiegare la filosofia. Poi ti chiedono sempre: ah dai, allora spiegami Kant, come se spiegare Kant ti serva a vivere meglio. E invece è capire alcune cose di concetti che secondo me è importante della filosofia. In questa sera vi voglio, voglio raccontarvi una persona, Ermanno Bencivegna, che nel 1991 ha scritto un libro che secondo me è uno dei più carini da un punto di vista divulgativo della filosofia e avrà aiutato un mondo a capire un po' come ci si approccia a questa materia, perché lui in questi 42, che poi sono diventate 62 favole per raccontare la filosofia, cerca di farci vivere mondi inusuali, mondi impossibili, mondi assurdi, che però sono anche un modo per tornare a darci messaggi sulla realtà che viviamo tutti i giorni e sul mondo che viviamo tutti i giorni. Io ora volevo proprio leggervi due delle sue favole, e la prima è qualcosa che mi sta tormentando nell'ultimo periodo, è riferita alla scuola. Infatti, vabbè, naturalmente, come tutti i ragazzi, io ho 26 anni, odio la scuola, no? Non voglio andare a scuola, la scuola è una merda. No, in realtà io non sono mai stato così, perché mi è sempre piaciuto un sacco andare a scuola, mi divertivo con gli amici, si impara con i professori, si fa un po' di casino. È sempre stato un grande momento per imparare e andare a scuola, mi raccomando, non bigiate, non ho mai bigiato neanche un giorno. No, vabbè, però un problema che ho con la scuola è quello che insegna, perché secondo me i contenuti delle materie oggigiorno non sono più tanto aggiornati, i professori molte volte hanno perso un po' di motivazione, ci sono un sacco di problemi anche le strutture, tecnologie, non sto neanche a dirlo, però è proprio un problema di impostazione anche culturale. E qui Ermanno Bencivegna ci presenta due scuole, una dove si dice sempre la verità e che è solo una, e nell'altra dove succede di tutto. È un po' a me quello che succede nelle nostre scuole, no? Dove dobbiamo arrivare alle 9, essere precisi, fare un'ora, poi un'altra, essere ordinati, prendere sempre 6. E la creatività, diciamo, si lascia un po' in disparte. Nonostante poi, quando si entra nel mondo del lavoro, la creatività è una delle competenze più richieste. Ma andiamo a vedere le due scuole di Ermanno Bencivegna, delle 42 favole per spiegare la filosofia. Al mondo ci sono due tipi di scuole. In uno si insegnano tutte le cose vere. Chi ha veramente fondato Roma? Qual è veramente la montagna più alta del mondo? Chi vive veramente sott'acqua? Nell'altro, invece, si insegnano tutte le cose false. Che Roma l'ha fondata Remo o Nuno Pompilio e che sott'acqua ci sono draghi e sirene. Fra i due tipi di scuola c'è una bella differenza e di verità ce n'è solo una. Se è vero che Romulo ha fondato Roma, non può essere vera che l'ha fondata nessun altro. Quindi, i bambini che vanno a questo tipo di scuola imparano tutte le stesse cose e quando le hanno imparate, passano il tempo a ripeterle. Roma è stata fondata da Romulo. Sott'acqua ci vivono i pesci, eccetera, eccetera, eccetera. In ogni momento dell'anno, se entrate in una scuola così, ci trovate tutti i bambini che ripetono la stessa cosa, per esempio che Roma è stata fondata da Romulo. Se uno sgarra e dice che Roma l'ha fondata qualcun altro, gli danno dell'asino, perché in queste scuole si insegna la verità e di verità ce n'è solo una. A lungo andare anche i bambini che vanno a queste scuole diventano tutti uguali. Hanno tutti un grembiulino bianco, i capelli rossi e neri, gli occhi gialli e blu, e mangiano tutti il gelato alla crema di Ribes. E quando crescono, tutti vogliono una macchina grande, con dentro il grande telefono, e un frigorifero e la lavatrice. L'altro tipo di scuola, invece, è molto diverso. Siccome per ogni cosa vera ci sono infinite cose false, ogni scuola di questo tipo insegna ai bambini cose diverse. Anzi, ogni bambino in una scuola impara cose diverse da altri. Uno impara che Roma l'ha fondata Remo, un altro che l'ha fondata Numa Pompilio e un altro ancora che l'ha fondata suo zio Gustavo, che tanto non ha mai niente da fare. Se entrate in una scuola così, ci trovate un gran pandemonio, con tutti i bambini che raccontano storie diverse e nessuno può dire a un altro che ha torto, perché non hanno torto tutti e lo sanno in partenza. E i bambini anche. Anche i bambini sono diversi, uno ha gli occhi verdi e un altro bianchi, uno ha il naso davanti e uno altro dietro, uno porta il grembiule e un altro lo scafandro. Quando crescono, uno vuole una macchina con dentro il frigorifero e un altro un frigorifero con dentro la macchina. Uno va in giro con il vestito e la cravatta e un altro senza cravatta e senza vestito. Il problema adesso che si pone è: quale di queste due scuole è davvero quella giusta? E vabbè, come al solito, come ho imparato del mio lavoro, così continuiamo anche un po' il racconto di me, oltre a essere di Como ed aver 26 anni e lavoro anche tanto, lavoro a Milano e lavoro nelle risorse umane. E nelle risorse umane la risposta che si dà sempre è dipende. E quindi non possiamo dire quale delle due scuole è quella giusta, la soluzione dipende. Ora che ho fatto così tanta malinconia di questo mio 1991, dandovi appuntamento al mio prossimo incontro dove continueremo le letture di Ermanno Bencivegna, io vi lascio a una canzone che ha un po' di malinconia dentro, ma è bellissima come il mio anno palindromo, ed è Benjamin Clementine, London. Sits in the back of this grey caravan. Tomorrow he'll probably jump in Parisian metro barriers with a bottle in his hands. Sparkling, sparkling water mixed with peaches and rum. Honestly, I don't drink, but if I did, this would be my favorite punch. He said, woke out the door with her. See everyone dressed in black, the classes seemed too far to fetch. She said, look at you, look at you, the game is over. Your cup is full, your cup is full. Stop praying for more exposure. It is obvious that you're trying. Dubious, stop or you die here. You're pretending, but no one is buying. London, London, London. Is calling you. What are you waiting for? What are you searching for? London, London, London is all in you. Why are you denying the truth? I'm mighty far in you, he said. Although not clear as the morning dew. Though my preferred way are not happening, I won't underestimate who I am capable of becoming. History will be made today, is written boldly on his face. So clear you could hardly miss it. You could hardly miss it. For transcending the barriers of yesterday was and is the dream. On a road where Cleopatra comes and goes like fishes caught in ponds, then thrown back for fun. She said, look at you, just pick a fleet. Your cup is full, your cup is full. What have you not yet achieved? It is obvious that you're trying. Dubious, stop or you die. You're pretending, but no one is buying. London, London, London is calling you. What are you waiting for? What are you searching for? London, London, London is all. My preferred ways are not happening. I won't underestimate who I am capable of becoming.